Canto 34 della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 34. Vexilla regis prodeunt inferni verso di noi. Però dinanzi mira, disse il maestro mio, se tu il discerni. Come quando una grossa nebbia spira, o quando l'emisperio nostro annotta, par da lungi un mulin che il vento gira, vedermi parve un tal edificio allotta. Poi, per lo vento mi ristrinsi retro al duca mio, che non v'era altra grotta. Già era, e con paura al metto in metro, là, dove l'ombre tutte eran coverte e trasparean come festuca in vetro. Altre son a giacere, altre stanno erte, quella col capo e quella con le piante, altra com'ar col volto a piedi inverte. Quando noi fummo fatti tanto avante, che al mio maestro piacque di mostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante, dinanzi mi si tolse e fe restarmi. Ecco dite, dicendo, ed ecco il loco ove convien che di fortezza tarmi. Com'io divenni allor gelato e fioco, non dimandar, lettor, chi non lo scrivo, però con il parlar sarebbe poco. Io non morì e non rimasi vivo. Pensa oramai per te, sei fior d'ingegno, qual io divenni d'uno ed altro privo. L'imperador del doloroso regno da mezzo il petto uscì fuor della ghiaccia e più con un gigante mi convegno che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oggimai quant'esser deco il tutto che a così fatta parte si confaccia. Se i fussi bel come egli è ora brutto e contro al suo fattore alzò le ciglia, ben dee da lui procedere ogni lutto. Oh, quanto parve a me gran meraviglia quando vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia. L'altre eran due che s'aggiungeno a questa sovresso il mezzo di ciascuna spalla e si giungeno al luogo della cresta. E la destra parea tra bianca e gialla. La sinistra a vedere era tal quali vengon di là ove il Nilo s'avalla. Sotto ciascuna uscivan due grandali. Quanto si conveniva tanto uccello, vele di mar non vid'io mai cotali. Non avean penne, ma di vipistrello era lor modo, e quelle svolazzava, sì che tre venti si movean da ello. Quindi, cocito tutto, s'aggelava, con sei occhi piangeva, e per tre menti gocciava il pianto, e sanguinosa bava. Da ogni bocca dirompea codenti un peccatore a guisa di maciulla, sì che tre ne facea così dolenti. A quei dinanzi il mordere era nulla verso il graffiar, che talvolta la schiena rimanea della pelle tutta brulla. Quell'anima lassù, ch'ha maggior pena, disse il maestro, è Giuda Scariotto, che il capo ha dentro e fuor le gambe mena. Degli altri due, c'hanno il capo di sotto, quel che pende dal nero ceffo è bruto, vedi come si storce e non fa motto. E l'altro è Cassio, che par sì men bruto. Ma la notte risurge, e oramai è da partir che tutto avem veduto. Come a lui piacque, il collo gli avvinghiai ed ei prese di tempo e luogo poste, e quando l'ali furo aperte assai, appigliò sé alle vellute coste, di vello in vello giù discese poscia, tra il folto pelo le gelate croste. Quando noi fumo là, dove la coscia si volge appunto in sul grosso dell'anche, lo duca, con fatica e con angoscia, volse la testa ov'egli avea le zanche ed aggrappossi al pel come uom che sale, sì che l'inferno io credea tornar anche. Attienti ben che per cotali scale, disse il maestro, ansando come uom lasso, conviensi di partir da tanto male. Poi uscì fuor per lo foro d'un sasso e pose men sull'orlo a sedere. Appresso porse a me l'accorto passo. Io levai gli occhi e credetti vedere Lucifero com'io l'avea lasciato e vididi le gambe in su tenere. E s'io divenni allora travagliato, la gente grossa al pensi che non vede qual è quel punto ch'io avea passato. «Levati su», disse il maestro, «in piede. La via è lunga e il cammino è malvagio e già il sole a mezza terza riede». Non era camminata di palagio, là veravam, ma natural burella, ch'avea mal suolo e di lume disagio. «Pria ch'io dell'abisso mi divella, maestro mio», diss'io quando fui dritto, «a trarmi d'erro un poco mi favella. Ov'è la ghiaccia? E questi, com'è fitto sì sottosopra? E come in sì poc'ora da sera mane ha fatto il sol tragitto?» Ed egli a me: «Tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermo reo che il mondo fora. Di là fosti cotanto quanto io scesi. Quando mi volsi, tu passasti il punto al qual si traggono d'ogni parte i pesi, e se or sotto l'emisferio giunto, che è opposito a quel che la gran secca coverchia, e sotto cui colmo consunto fu l'uom che nacque e visse senza pecca. Tu hai li piedi in su picciola spera che l'altra faccia fa della giudecca. Qui è da man, quando di là è sera, e questi che ne fe scala col pelo fitto è ancora sì come prima era. Da questa parte cadde giù dal cielo, e la terra, che pria di qua si sporse, per paura di lui fe del mar velo e venne all'emisperio nostro. E forse per fuggir lui lasciò qui il luogo vuoto, quella ch'appar di qua e su ricorse. Luogo è laggiù da Belzebù rimoto, tanto quanto la tomba si distende, che non per vista, ma per suono noto, d'un ruscelletto, che qui vi discende per la buca d'un sasso, che gli è roso col corso, che gli avvolge e poco pende. Lo duca ed io per quel cammino ascoso entrammo, per tornar nel chiaro mondo, e senza cura aver d'alcun riposo, salimmo su, e il primo ed io secondo, tanto ch'io vidi delle cose belle che porta al ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle. Fine del canto 34. Fine della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri.